Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti. Per questo lunedì 16 dicembre le sardine a Roma fanno un grande successo in Piazza San Giovanni e si ritrovano il giorno dopo a discutere del loro futuro. A Madrid nulla di fatto, l'unica voce che rimane è quella del Friday for Future. Tutto questo leggeremo nella rassegna stampa, ma adesso Radio Bullet, buon ascolto. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Arabia Saudita. Per le donne finisce la segregazione nei ristoranti. In Brasile è polemica contro Netflix e il suo Gesù gay. Weinstein torna a parlare e, dopo gli arresti, a cantare l'inno femminista sono le deputate in Turchia, di fronte al governo. Questo è il nostro notiziario di genere e io sono Angela Giannato. L'Arabia Saudita non richiederà più ai ristoranti di avere ingressi separati per uomini e per donne. A dirlo è il governo e a riportarlo è la BBC. Fino a questo momento i locali erano obbligati ad avere un ingresso per donne e famiglia e un altro separato per i soli uomini. E all'interno dei ristoranti le famiglie e le donne erano solitamente separate dagli uomini da degli schermi. Anche se nella vita di ogni giorno le restrizioni si erano poi già attenuate, prosegue la BBC, con molti ristoranti, caffè e altri luoghi di incontro che non impongono già più la segregazione, comunque si tratta di un ulteriore segnale. Una serie di radicali riforme sociali in Arabia Saudita è stata infatti negli ultimi tempi accompagnata da un'intensificata repressione del dissenso. All'inizio di quest'anno un decreto reale ha permesso alle donne saudite di viaggiare all'estero senza che avessero bisogno del permesso di un tutore maschile. Nel 2018 il Regno del Golfo ha posto fine a un decennio di divieto di guida per le donne. Restano comunque in vigore molte leggi discriminatorie nei confronti delle donne e diverse persone, diversi attivisti e diverse attiviste sostenitrici dei diritti delle donne sono state arrestate anche mentre il governo aveva comunque avviato alcune riforme. Il Ministero Saudita dei Comuni ha spiegato che i ristoranti non avranno più bisogno di mantenere quindi ingressi separati per donne e uomini. Si tratterà eventualmente di una decisione lasciata ai gestori. La settimana scorsa vi abbiamo dato conto del grido di battaglia "E il violatore res tu, lo stupratore sei tu", che dal Cile si è diffuso in tutta Europa e nel resto del mondo, arrivando anche in Turchia, a Istanbul, dove però una settimana fa le donne che danzavano sono state attaccate dalla polizia e dove ci sono stati 7 arresti per quella manifestazione. Il governatore di Istanbul, scriverete Kurdistan, ha motivato quegli arresti con il testo della performance che costituirebbe un reato. In quel testo vengono attaccate le strutture che supportano la violenza contro le donne in tutto il mondo, che la rendono possibile e che la eseguono materialmente. Non è colpa delle vittime se si trovano nel posto sbagliato, non è colpa delle vittime se indossano qualcosa di sbagliato. È colpa degli uomini, dei poliziotti, dei giudici, dello Stato, del presidente, dice il testo della performance. A Istanbul era stata organizzata dalla piattaforma Kadın Sina Yetlerini Durdurasajiz, Noi fermeremo i femminicidi, un'organizzazione turca per i diritti delle donne che registra le violenze contro le donne, che si è data come compito la denuncia pubblica dei femminicidi. Pochi giorni dopo quegli arresti e quella performance, il grido di battaglia femminista è sbarcato all'Assemblea Generale Turca. Qui le deputate hanno cantato la versione in turco dell'inno ormai diventato virale, l'inno cileno femminista, per evidenziare la crisi del femminicidio nel paese. Un video di Deutsche Welle mostra le 8 donne legislatrici del principale partito popolare repubblicano dell'opposizione che battono le mani sui banchi mentre interpretano la cosiddetta protesta del collettivo La Stesis. Altri colleghi si sono alzati in piedi dietro di loro e hanno mostrato una ventina di foto di vittime di femminicidio in Turchia. mentre il governo, tutti uomini, naturalmente, restava a guardare. Grazie a te la Turchia è l'unico paese in cui devi avere l'immunità parlamentare per partecipare a questa protesta, ha detto la deputata Sera Kadijil a Süleyman Soylu, ministro degli interni della Turchia, prima della protesta riferendosi proprio agli arresti di pochi giorni prima. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorda Reuters, affermano che il 38% delle donne in Turchia sono state violentate da un partner durante la loro vita, rispetto alla media del 25% circa, la media europea. I dati non ufficiali raccolti da un gruppo di attivisti e di attiviste mostra, scrive ancora Reuters, che le donne uccise dagli uomini nel paese lo scorso anno sono state 440, più del doppio rispetto al 2012, quando Ankara ha approvato una legge per proteggere le donne. La Turchia non ha statistiche ufficiali sul femminicidio. Per le donne ho fatto più di chiunque altro, parola di Harvey Weinstein, e se pensate che si tratta proprio dell'uomo da cui, dalle cui storie, dal cui comportamento ha preso piede il movimento MeToo in tutto il mondo, in fondo si può dire che a modo suo ha ragione. Il produttore cinematografico è accusato penalmente di abusi sessuali e ha detto queste parole in una recente intervista con il New York Post dalla sua stanza d'ospedale a New York, da cui è stato poi dimesso dopo un intervento chirurgico alla schiena. Una delle grandi novità dell'intervista è che Weinstein ora penserebbe che la gente si stia dimenticando di tutto quello che nel corso della sua carriera avrebbe fatto proprio per le donne. Dice di sentirsi un uomo dimenticato. Ho prodotto più film diretti da donne e su donne di chiunque altro, sto parlando di 30 anni fa, non di ora che ormai è di moda, dice lui. L'ho fatto prima io, sono stato pioniere, ma tutto è stato sventrato a causa di quello che è successo, il mio lavoro è stato dimenticato. Fa anche degli esempi Weinstein di quanto avrebbe fatto per le donne, cita per esempio Gwyneth Paltrow, cui sostiene di aver dato 10 milioni di dollari per recitare nel film del 2003 View from the Top, in italiano noi lo abbiamo tradotto con Una hostess fra le nuvole. Più di quanto guadagnasse qualsiasi altro uomo in quel momento, dice il produttore. Spiega anche di aver fatto ottenere a Felicity Huffman una nomination all'Academy Award, lanciandola in Transamerica. Una mossa che considera super progressista, dice lui, per la quale pensa di meritare un riconoscimento, si legge sul magazine TMZ. Dice anche che Madonna gli ha fatto conoscere poi il documentario Paris is Burning, che parla della cultura drag della città, e rivendica di averlo portato all'attenzione del pubblico negli Stati Uniti e oltre, appropriandosi dei diritti di distribuzione. Se ti ricordi chi ero allora, potresti voler mettere in discussione un po' di quello che sta accadendo ora, dice Harvey Weinstein, ma non risponde alle accuse che gli sono state mosse. Andrà a processo il 6 gennaio e 5 sono le accuse, tra cui violenza sessuale predatoria, atti sessuali criminali e stupro. Sostiene di essere innocente. Festa deve estar caidíssima. Deve estar um fracasso esse lugar. Entra, a gente entra que festa surpresa, não pode atrasar, vambora. E in Brasile c'è un film che sta sollevando un vero e proprio putiferio. A protestare lo stesso figlio terzogenito del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, che è un deputato federale, e che ha protestato insieme col movimento evangelicale brasiliano contro il film Netflix La prima tentazione di Cristo, che è realizzato dal seguitissimo canale comico YouTube Porta dos Fundos, come speciale natalizio proprio per la piattaforma Netflix, dura 46 minuti ed è vietato ai minori di 14 anni. Ne scrive Gay News, tra gli altri. Netflix Brasile ha appena lanciato uno speciale di Natale in cui Cristo, Gregorio Duvivier, è gay e ha rapporti con Fabio Porchat, oltre a rifiutarsi di predicare la parola di Dio, scrive Bolsonaro figlio su Twitter. Siamo a favore della libertà di espressione, ma vale la pena attaccare la fede dell'86% della popolazione? A voi la riflessione, dice lui. Il lungometraggio del collettivo satirico brasiliano è disponibile anche sulla versione italiana della piattaforma e ha innescato una valanga di polemiche sui social. È stata anche lanciata una petizione affinché venga rimosso, ma Netflix lo difende e parla di libertà di espressione. Il film racconta la storia di un Gesù che deve presentare alla famiglia e ai suoi discepoli il suo fidanzato, Orlando. Di ritorno da un viaggio di 40 giorni nel deserto, e Gesù dovrà confrontarsi anche con un'altra dura verità, quella sulla propria paternità, cioè la faccenda, tutt'altro che banale, della parentela con Dio. Un film quindi fortemente satirico, fortemente irriverente e dissacrante. Da parte sua, Duvivier, interprete del film, con Fabio Porcia e Antonio Tabè, nonché cofondatore di Porta dos Fundos, ha ironizzato sui social in merito alla proposta di boicottare la serie televisiva. Il collettivo, nato su YouTube, ha già portato a casa un Emmy con la miglior commedia per Se ve ver, no. Sì, Deus è molto buono, creò un mondo in 7 giorni, e un tempo depois apolou as suas crias. E anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo, e nel frattempo, se volete sostenere il nostro lavoro, potete sempre andare sul nostro sito alla pagina radiobullets.com/sostienici. In diversi ieri al termine della gara fra Bologna e Atalanta hanno fatto la stessa riflessione. Una gara all'inglese, ovvero due squadre che si sono affrontate a viso aperto, lasciando un po' in secondo piano la fase difensiva e cercando sempre di andare in rete, chi per consolidare il vantaggio come il Bologna, chi invece per recuperare e andare a perlomeno a pareggiare, se non a un certo punto anche se il tempo fosse stato sufficiente anche a vincere. Bologna-Atalanta finisce 2-1, l'Atalanta che veniva da una settimana trionfale, quella della qualificazione alle top 16, chiamiamole così, di Coppa, di Champions League, e un Bologna che veniva da 7 sconfitte consecutive contro la Dea. È un Bologna che probabilmente è una delle poche volte quest'anno dove possiamo dire che ha guadagnato meno di quello che aveva investito. Bologna che sicuramente gioca da centrocampo in avanti una buona gara, ma rimangono tante perplessità sulla fase difensiva, perché mette sicuramente in difficoltà col pressing là davanti e da un Rodrigo Palacio che, oltre a segnare il primo gol su tap-in, sulla respinta sul tiro di Orsolini, tra parentesi Orsolini torna titolare, fa una buona gara contro i suoi ex compagni di squadra. Dicevamo un Rodrigo Palacio che corre veramente tanto, sempre un punto di riferimento, e Gollini nel primo tempo gli impedisce anche di fare doppietta. Poi il Bologna ha stato graziato, a mio avviso, dall'Atalanta, l'Atalanta che si presentava senza l'attacco titolare, ovvero Papu Gomez, Ilicic e Zapata, e con diverse imprecisioni, soprattutto a mio avviso prima del gol del vantaggio del Bologna, un paio di occasioni non sfruttate degnamente. Il Bologna poi inizia della ripresa con una bella azione cross dalla destra di Tomiyasu e poi in sacca di testa, va sul 2-0, lì dopo entra Moussa Barrow che scombina ancora di più la retroguardia del Bologna, che dopo il gol del 2-1 da Marinoschi, a mio avviso l'imprecisione dell'attacco atalantino, il Bologna stringe i denti, rimanendo anche nel finale in 10 uomini per l'espulsione di Danilo, che portato alla munizione di Densoli comporterà che i due non giocheranno domenica a Lecce. Dicevamo una vittoria molto importante perché muove la classifica a di punti con distacco che seppur con la vittoria del Brescia è aumentato, che sono 6 punti, ora 13 il Brescia che è il terzo ultimo, ma un Bologna che appunto prende fiducia da questa vittoria. Mihajlovic era in panchina sfidando il freddo, diciamo, prende fiducia e probabilmente in casa dei dividendi che avrebbe meritato in altre partite, però in queste situazioni non si guarda davanti al bottino finale importante, diciamo, domenica ci va in quel di Lecce, una trasferta dedicata già per quanto riguarda il discorso delle assenze, una squadra che soprattutto tra le mura amiche è sicuramente difficile da gestire, però ci si va con una consapevolezza di avere problemi difensivi, qui dovrà essere bravi in sana Mihajlovic col suo staff a cercare di inventarsi una nuova difesa e cercare magari che anche il centrocampo faccia un pochino più filtro e che di fare l'attacco bene o male riesce sempre a dare soddisfazione. Però l'importante era finire queste due gare interne, Milan e Atalanta, facendo più punti possibili, 3 a mio avviso è un buon bottino che consente a tutti di provare a vedere il futuro con fiducia, e ad arrivando poi alla pausa natalizia, da lì scatteranno tutte le varie voci di mercato, sicuramente un puntello in difesa è il non dico il minimo sindacale, ma è la base su cui partire. Andando al basket, la Virtus sabato sera batte Brindisi, lo fa vincendo 99-87, una bella gara, anche qui chiamiamola un po' all'inglese, con sicuramente l'attacco che ha fatto vedere belle cose. Chi ha fatto vedere belle cose nelle primi due quarti è stato sicuramente Miloš Teodosić, che ha dispensato alla fine della gara, saranno 10, ma nei primi due quarti sono stati la maggior parte. Una gara dove la Virtus, che veniva dalla vittoria in Coppa contro i greci di Patrasso, Virtus che era riduce in campionato dalla debacle di Cremona, riesce a gestire una squadra di Brindisi molto, molto coriacea, che gioca in velocità ed ha i protagonisti che magari non ti attendi, perché alla fine il dottore Cournou, che fa una buona prestazione dal campo con un 3 su 4 da 3 punti, 15 punti saranno per lui alla fine, la coppia Gaines-Wims ne fa 14, Ricci 10, Teodosić fa la doppia con 10 punti e 10 assist. Ancora il discorso dei rimbalzi, alla fine saranno 41 per i palloni di casa contro i 43 degli ospiti, ma la Virtus è stata brava a trovarsi, dopo un inizio di gara non proprio dei più precisi, non tanto nel tiro ma nel quanto di capire qual era il ritmo da seguire. Non a caso nel dopopartita coach Frank Vitucci di Brindisi analizza la sua sconfitta dicendo che quando non hanno più gestito i ritmi come volevano loro, sia in attacco che in difesa, la Virtus ha dato il largo, arrivando anche all'inizio del terzo quarto avanti di 20. Questa secondo me è una squadra che nel DNA non è capace di gestire i vantaggi, perché ha spesso un po' di calo di tensione. Settimana molto importante, come poi è tutto il mese di dicembre per la Virtus. Martedì, cioè domani, si va a Monte Carlo per giocarsi il primato nel girone, poi domenica a Sassari nel Beach, che potrebbe non sancire il primato in classifica, perché la Virtus ha ancora due vittorie di vantaggio, se me ne arriverebbe una in caso di sconfitta, ma mettiamola così, prendere le misure sulla vera potenza in questo campionato. Una trasferta, lo vedremo dopo con il successo della Fortitudo, che ci ha giocato ieri a mezzogiorno. C'è un'offerta cartina di tornasole per vedere l'impatto contro una squadra sicuramente, assieme a Venezia e a Milano, candidata per arrivare nelle semifinali. Quindi vediamo come arriverà alla fine di queste due partite molto molto importanti. Dicevamo della Fortitudo, che perde in quel di Sassari 86-80, lo fa dopo bellissimo, a mio avviso, primi due tempi di gioco, dove concretizzare poco, perché finisce avanti di tre punti, sfruttando una squadra, quella di Sassari, molto, molto noiosa in attacco, che non gira la palla, e riuscendo la Fortitudo di coach Antimo Martino a giocare invece in attacco con molta più rapidità, molta circolazione di palla, e con un Sims che viene fermato soltanto dai due falli molto molto precoci, e da lì è il duo Aradori-Roberts che tiene in vantaggio la Fortitudo con un buon Cinciarini. Quando entra fa 8 punti in un amen, poi come tutta la panchina dell'F, vedremo poi negli ultimi due quarti un po' svanisce. Infatti la gara poi è decisa lì, quando Sassari è un pochino più precisa non solo nel tiro ma anche nella circolazione della palla, fa pesare il suo atletismo sia in fase offensiva che in fase difensiva, e qui lo si vede anche perché le percentuali dei bianco-blu vanno a calare. Sicuramente una partita difficile da cui la Fortitudo esce a mio avviso dimostrando le difficoltà che sono palesi, cioè di una panchina con poca fisicità che a gioco lungo contro squadre molto più attrezzate come può essere Sassari vanno ad essere prese in considerazione. Una Fortitudo che domenica è attesa dall'arrivo di Brindisi, Fortitudo che è ancora in piena gara per arrivare alle Final Eight di Coppa Italia. Non era sicuramente una gara su cui si basava il proprio futuro, ma non è neanche una gara dove si torna dall'isola con dei rammarichi. La situazione è sicuramente sotto controllo. Sono curioso di vedere appunto domenica, contro una squadra che fa della transizione come Brindisi il suo punto di forza, come saprà reagire dovendo correre abbastanza. Rimane per quanto riguarda Fortitudo qualche problema di regia, uno per Fantinelli che rifiuta spesso i tiri, l'altro per Stipcevic che non riesce a dare i giusti ritmi ai suoi compagni. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Graziosa bambina, come soffro! Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina, carina, allegra e spensierata sei carina, carina, ma con il broncio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, carina tu sei fatta per amare. Carina. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove minuti 30 in punto di questo 15 dicembre, lunedì, si riprende la settimana che precede poi quella natalizia. E direi che il successo della manifestazione delle sardine a Roma si misura anche proporzionalmente, ma a livello inversamente proporzionale, con i giornali della destra, che sono assolutamente velenosi sull'argomento e dimostra appunto che le sardine hanno morso. Il Libero, per esempio, dice: le sardine vanno a fondo. Dopo il mezzo flop della manifestazione, è per il guaio che l'altro mezzo flop, l'altra metà, ha riempito Piazza San Giovanni e tutte le strade intorno. Comunque, dopo il mezzo flop della manifestazione, le acciughe, tutta la stizza di Feltri, si radunano in un centro sociale occupato e tra i portavoci spuntano anche i seguaci di Hamas, perché c'è una ragazza musulmana. Il leader intanto già pensa a trovare una poltrona. Questo è la titolo del Libero, che poi il sottotitolo è: a Bologna i compagni minacciano chi si avvicina al banchetto leghista. Questa è la giornata di Libero che apre qui questa mattina, ma non solo Libero, perché possiamo guardare ad esempio il Messaggero di Caltagirone a Roma: sardine in conclave nel palazzo occupato dove rubano la luce, dei veri delinquenti. Roma, vertice allo Spin Tea Time di Maio, un errore, i promotori dopo San Giovanni supereremo il 25%, questo non è di Maio, comunque è un errore del Messaggero. E poi possiamo andare invece al Giornale: ci mancavano pure le sardine islamiche, a Roma in piazza la figlia dell'imam di Milano, lei e il marito su Facebook scatenati contro Israele. Quindi anche noi siamo di Hamas, perché anche noi ci scateniamo contro Israele quando bombardi i palestinesi. In realtà questa ragazza dal palco ha fatto un grande intervento, tra l'altro facendo una cosa estremamente eversiva, ha letto un pezzo della Costituzione italiana, questo, e poi ha parodiato la Meloni dicendo: io sono una donna, sono musulmana, sono palestinese. Questa cosa non va giù al Giornale, che poi naturalmente insegue la... Poi sardine, allora qual è il gioco di parole sciocco? Vorrebbero tutti muti come pesci, perché hanno detto le sardine che sarebbe corretto che chi ha un potere ministeriale comunicasse per via istituzionale, non con i social, non con i talk show, che il Parlamento tornasse a essere il centro di dibattito politico. Vergogna le vergogne, secondo Francesco Maria Del Vigo, che poi ci dà sotto. E ancora appunto abbiamo visto sul palco pure le sardine islamiche, la figlia dell'imam scatenata contro Israele, ma non è contro l'odio quando difende la sua Palestina. Ora qui dobbiamo mettere dei puntini sulla I di odio, perché odio è quella cosa che attacca le persone in quanto persone, perché donne, perché vecchi, perché giovani, perché bianchi, perché neri, perché gialli, perché ebrei, perché islamici, perché cristiani, perché gobbi, perché mangiano il pistacchio. E invece conflitto politico, anche il più duro, è sacrosanto ed è il sale della democrazia. E qui non è che si critichi Salvini se è uno che fa dell'odio, si critichi Salvini per la sua barba, sì. Sì, e qui qualcuno mi dà ragione, evidentemente. Dalla piazza al congresso vogliamo pure il 25%, in Emilia siamo a sinistra. E questo è una gran scoperta, anche questa. La stessa scoperta che fa anche Contropiano, che dopo una lucida analisi delle sardine dice: beh, però hanno il PD tra i loro referenti. Anche questa è una grande scoperta. Ogni tanto c'è qualcuno che scopre l'acqua calda, comunque. E poi avanti con il Giornale: Santori in Star TV, 16 talk show in 28 giorni. Il leader delle sardine nuota da un mese tra gli studi della Rai e la 7. Non come Salvini, che non c'è mai in TV, veramente. Questo è. Si è fatto giusto un'oretta da Giletti ieri sera. E infatti, però questo non compare sul Giornale, perché lo squalo invece non è una sardina. Ma veniamo allora ad altri giornali che ovviamente con meno livore riconoscono, magari pur guardando anche il limite del movimento delle sardine, ma riconoscono i loro meriti, quello di spostare un sacco di gente su delle tematiche, sono difesa della democrazia, difesa della Costituzione e cantando Bella Ciao. Il nostro obiettivo è sopra il 25%, sardine in campo, Conte le benedice, la riunione dei 150 referenti, fermare Salvini, Santori puntiamo al dialogo con la politica. E anche qua, musulmana sul palco, attacchi da Lega e Forza Italia. Appunto, una musulmana non può andare sul palco in Italia, questa è la logica di quelli che l'odio sì ce l'hanno nel sangue. Isabella Ferrari, perché il Corriere è sempre in cerca di testimonial, la nota attrice della Rai TV e non solo, in piazza ho trovato un gran senso di pace e spero non si brucino. E questo, e sono intanto che vorrebbero bruciarle da destra, ma non solo. Niente liste, ma vogliamo più noi più del 25%. Sardine in conclave in Emilia stanno con Bonaccini senza candidarsi. In Calabria solo un appello contro il sovranismo. E devo dire che sia da destra che da sinistra, che dal centro, che da tutte le parti, le sardine sono un po' tirate per la giacchetta, come si direbbe, anche se tirare per la giacchetta un pesce è un po' difficile, ma insomma ci capiamo. Ci si aspetta proposte politiche sull'Ilva, su questo, su quell'altro, senza capire che, come sta ripetendo nei vari talk show e non solo Santori, è un movimento di opinione e dovrebbe essere lasciato come tale. Ma non dovrebbe essere i partiti a dare, ecco, risposte, sono quelli che invece chiedono risposte. Esatto, infatti è un movimento di opinione che chiede delle risposte, magari anche in maniera raffazzonata, magari anche in maniera come dire ingenua per i soloni della politica, e quindi fanno sorridere, sghignazzi da tutte le parti. Vediamo di non rovinare anche questo movimento infilandolo nell'agone politico, come è successo da sempre. E poi sono quelli che per un movimento deve essere d'accordo su tutto, dalle foche in Antartide fino ai compagni arrestati, passando per i centri occupati, passando per il lavoro all'IVA. Cioè, questo è il movimento, perché se qualcuno è d'accordo su qualcosa non va più bene. E stamattina, mai mi sarei sognata nella vita, mi tocca condividere Franceschini. Perché in un'intervista alla Repubblica dice le persone sono più avanti della politica e chiedono a noi e ai 5 Stelle di fare una scelta di campo. Le sardine ci mostrano un popolo e ci indicano una strada. Dario Franceschini vede nei ragazzi partiti da Bologna, nelle piazze che hanno saputo animare, il campo che la politica non ha ancora costruito. La destra si è riconosciuta e organizzata intorno agli estremismi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, spiega il ministro della Cultura. Il campo avverso ancora no, ma sarà costretto a farlo a partire dai valori che hanno riempito quelle piazze. Quei ragazzi hanno detto molto chiaramente da che parte stanno, soprattutto lo hanno fatto scegliendo di incontrarsi. C'è un libro di 20 anni fa di Albert O. Hirschman, Felicità privata e felicità pubblica, la cui teoria di fondo è che ci sono momenti della storia in cui la gente si chiude in casa, nel privato, alternati ad altri in cui le persone cercano la felicità nelle cose pubbliche. È quel che sta accadendo? Gli chiede Annalisa Cuzzocrea. Sì, queste persone non si sono limitate a una comunicazione digitale perché avevano voglia di riconoscersi come popolo. È quello che in tutto il mondo è successo con le piazze di Greta ed è un fenomeno che apre molte speranze. Sì, è un fenomeno che apre speranze, ma se una certa politica non si mette di buzzo buono, come si dice a Bologna, per incontrare queste sollecitazioni e magari provare a dare delle risposte, provare a dare un percorso politico, rimarrà un grande vuoto, che poi sicuramente dalle sardine ci uscirà qualcuno che ha velleità di protagonismo e decide di scendere in politica, come disse Berlusconi ai suoi tempi, sempre in un momento di grande vuoto scendo in campo, e fa raffazzonando, appunto, perché non c'è la preparazione. A questo punto i soloni diranno: avete visto che l'avevo detto? Esatto, che era tutto un fuoco fatuo. Bene, questo è quanto, ti ridò il microfono. Niente, allora aspettando che qualcuno aspetti il cadavere delle sardine passare per il fiume, le sardine e il fiume ci stanno, né più nel mare, noi andiamo un po' con il Triulescano. La sardina tutta candò con un sardo pieno d'amor. Quel giorno si doveva sposare, si doveva sposare, tutti in festa il mare era già, e l'attesa con ansietà, ma rimase in vano d'aspettare. La sardina perse il sardo, e girando va per mare, va cercando quel bugiardo, che non la vuol più sposare. Calamari, pesci, cani, la seconda nata d'amor, ma i sospiri sono Le sardine innamorate del Triolescano, dunque, passiamo invece a Madrid. Ai ai ai, qui le cose non buttano per niente bene, perché dice il Corriere: divisione, maratone, rinvii, il fallimento dei grandi sul clima, dei grandi piscuani, verrebbe da dire. Alla COP25 l'opposizione di USA e Russia sulle emissioni, il segretario ONU Guterres: un'occasione persa. Ma l'articolo finale all'ambizione è un appello. Siamo all'appello all'ambizione. Quando bisogna fare delle iniziative concrete per impedire le emissioni di CO2, eccetera, fanno l'appello all'ambizione. Il compromesso finale rilancia l'appello alla necessità urgente di aumentare i tagli alle emissioni di CO2, in linea con l'accordo di Parigi, con piani più restrittivi entro il 2020. Solo 84 paesi sono finora già impegnati formalmente. L'articolo 6 rinvia sui crediti di CO2. Perdite e danni avanti senza soldi, le emissioni più 4% dal 2015. Queste sono le cose che ha partorito, a dir poco, una montagna, neanche il topolino, una pulce. Questo è il quadro. Mentre l'attivista Greta, che tutti guardano che la fa Greta Thunberg in un modo o nell'altro, dal treno sovraffollato: noi non ci arrenderemo. Perché? Cosa succede sul treno? Ce lo racconta il giornale, che appunto segue Greta quasi in modo parossistico. Greta, foto in treno con gaffe, a terra no, in prima classe. L'attivista twitta: mezzi tedeschi affollati, l'azienda si infuria, trattati in modo amichevole e competente. Tutto questo per dire che Greta Thunberg fa la furba. Poi scopriamo che lei ha preso un treno che è stato soppresso, ne ha preso un altro, dopo è stata per un pezzo seduta per terra e poi si è messa a sedere. Questo è il quadro, la colpa tremenda, ed è il problema del mondo dell'ecologia. E allora Gianmica Lessin, Pandrid, sentiamo cosa dice. È andata bene, e non sto scherzando, è andata bene, ovvero, te leggo: nonostante i greti milioni di gretini, anche la 25ª conferenza dell'ONU sul clima di Madrid è stato un buco nell'acqua, meno male, vero? Ma non c'è nulla di per cui sorprendersi, né tantomeno di per cui preoccuparsi, ma quando mai? Come spiega la lettera indirizzata all'ONU dello scorso dicembre da 500 tra scienziati e associazioni di 13 paesi, c'erano scienziati e 499 associazioni di destra, le catastrofistiche previsioni che preoccupano Greta non hanno nessun motivo di essere, sottolinea il giornale, che poi continua a pagina 11, nulla di scientifico. E non solo perché nessuno ha ancora provato che il riscaldamento climatico sia attribuibile esclusivamente all'uomo, beh, una parte sicuramente sì, ma anche perché la tanto criminalizzata anidride carbonica non è un fattore inquinante, bensì un elemento naturale prodotto di quella fotosintesi clorofilliana a base dello sviluppo del vegetale. Anche questa è la scoperta che si sa in quinta elementare, forse anche in terza. Peccato che ce n'è un po' troppa di queste CO2. Per contro, i modelli usati per ipotizzare nuove politiche climatiche hanno previsto un surriscaldamento del pianeta molto più rapido di quello che effettivamente è verificato. Ma quello che rende veramente irrealizzabile le tesi discusse a Madrid è il principio assolutamente teologico della comune ma differenziata responsabilità sancita nel 92 nella COP25. Cioè, il giornale si arrabbia perché si dice che sostanzialmente gli Stati Uniti d'America inquinano più del Mali o del Chad, e però il Mali e il Chad soffrono più degli Stati Uniti d'America dell'inquinamento climatico. Ecco, guai alle comuni responsabilità. E c'è un'intervista a Giova o Lorenzo o Giovanotti che dice: penso ancora positivo anche sull'ambiente, credo nel progresso dell'umanesimo. Gli dice: dicono che l'erosione delle coste sia colpa nostra, speculazione edilizia, riscaldamento globale. Risponde Giovanotti: a me non piace questa cosa molto italiana che ognuno è esperto di tutto e si domanda a un cantante di spiegare perché si erodono le coste. Io vorrei che questa questione venisse posta a chi ha delle risposte che si basano sullo studio, i dati, le prospettive possibili. Giovanni Soldini, che è mio amico, mi ha raccontato che nella sua recente navigazione a vela dalle Hawaii a Hong Kong ha incontrato in 15 giorni 4 enormi masse di plastica a pelo d'acqua lungo la rotta in pieno oceano. Hai presente quanto è grande il Pacifico? Appunto, scontrarsi per 4 volte contro rifiuti prodotti dall'uomo vuol dire che il mare non è letteralmente infestato, è inoltre c'è sempre meno pesce e quello che c'è spesso mangia quella plastica che si disintegra in piccoli pezzi. Esiste una questione non solo ecologica, è perfino mitologico il male che può derivare da questa situazione. Si ferisce un dio, si viola una forza creatrice fondamentale. E ancora dice: di che colore è il mare? Azzurro, verde, trasparente, purpureo, scriveva Omero. Il mare è di tutti i colori, è come la mente di Ulisse, suo specchio. Piero Citati ha scritto un libro su Ulisse intitolato La mente colorata, una delle definizioni più belle non solo per l'uomo ma per quasi tutto ciò a cui aspirare. Il mare è la mente colorata assoluta. E quindi con questo messaggio di speranza di un artista andiamo invece poi a leggere quello che ho anch'io sulle cronache, che non sono proprio non rispecchiano proprio il pensiero positivo di Jovanotti. Fallisce la COP25, dice il Corriere, scusate, La Stampa, probabilmente è un po' in disaccordo col titolo del giornale. Tutto rinviato al summit del 2020 che ci sarà a Bonn. Clima deluso dal vertice, rischiamo di perdere la sfida per sopravvivere. Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, alla vigilia della visita in Italia. Possiamo ancora invertire la tendenza, il 2020 sarà decisivo, la scienza dalla nostra parte. Ogni anno si dice che l'anno prossimo sarà decisivo, fino a che forse arriverà l'anno che non ci sarà più nulla da fare. E ancora... COP25, ha vinto il carbone, paesi inquinatori contro paesi emergenti, le nuove norme sulle emissioni, il nodo irrisolto dell'articolo 6. Ecco perché è fallito il summit. Andiamo a vedere. Gli aiuti ai paesi vulnerabili è un punto strettamente legato al precedente, cioè quello dei nuovi target e degli accordi di Parigi, dove ogni nazione dovrà prendere impegni vincolanti per fare in modo che entro la fine del secolo il riscaldamento del pianeta non superi gli 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Dice: se non si ridurranno drasticamente le emissioni sarà la catastrofe, ma non tutti pagheranno lo stesso prezzo. Se per esempio, come prevedono gli scienziati, nei prossimi 80 anni i mari dovessero innalzarsi di 4 metri, le prime a sparire dalla faccia della Terra sarebbero centinaia di isole con le loro comunità. Stesso discorso per molti paesi africani che già oggi devono affrontare ondate straordinarie di siccità. Chiedono dunque un aiuto economico ai paesi ricchi, storicamente responsabili di aver emesso CO2 per secoli, e sono 50 miliardi di dollari l'anno entro il 2022. Su questo punto si sono messi di traverso gli USA di Donald Trump, almeno a parole, più per una questione legale che per i soldi. Non vogliamo che sia formalizzata la nostra responsabilità per eventuali catastrofi climatiche, è stata in sintesi la posizione statunitense, che ha fatto saltare l'accordo provocando il durissimo intervento del rappresentante di Tuvalu. C'è una nazione che si è schierata contro queste misure pur avendo deciso di uscire dagli accordi di Parigi, ha ricordato il diplomatico. Sì, perché gli Stati Uniti escono dagli accordi, però poi dettano legge con i nuovi accordi. E ancora, il mercato del carbonio è stato ormai il famigerato articolo 6 degli accordi di Parigi che si è consumato il vero psicodramma di questo COP25. L'articolo prevede meccanismi di compravendita dei crediti di carbonio per aiutare i paesi e le imprese che sforano con le loro emissioni. Semplificando, se il paese A taglia le emissioni di 120, il paese B solo di 80. A può vendere a B i suoi 20 crediti in modo che entrambi si raggiunga il target 100, ma questo mercato ha bisogno di regole e controlli rigorosi perché sia davvero utile alla riduzione complessiva del CO2, regole di cui il Brasile, appoggiato dall'Australia e dall'Arabia Saudita, non ha voluto sentir parlare. Il paese di Bolsonaro vorrebbe per esempio vendere come crediti di CO2 foreste da impiantare lì dove ora sta disboscando. Non solo ha difeso il double counting, cioè la CO2 assorbita da un certo progetto viene contata due volte, una da chi vende il progetto, l'altra da chi lo acquista. Insomma, questo in sintesi. E la domanda chi santo votarsi certamente non alla grande impresa, perché c'è invece come l'imprenditore del caffè Illy che è fiducioso nelle sorti benefiche del capitalismo, si diceva così un tempo. Le aziende si diano obiettivi verdi, chi sta a guardare perderà business. Andrea Illy, noi carbon free entro il 2033, parlando della sua azienda. Allora, la COP è un fallimento, sì, ma una piccola battaglia rimane la grande guerra, perché sono altri due fattori di pressione positivi, dice Illy al Corriere e a Rita Querzè, la finanza e i consumatori. Intende la finanza etica? Siamo sicuri che abbia risvolti concreti? Certo, concretissimi. Larry Fink, l'amministratore delegato del più grande fondo di investimento al mondo, la BlackRock, nella sua ultima lettera annuale alle imprese ha invitato i dirigenti a svolgere un ruolo più attivo nell'affrontare le questioni sociali e ambientali. Quest'estate 881 corporation americane hanno dichiarato che l'impresa deve avere un suo scopo che va oltre il profitto. Questa impostazione sta prendendo piede anche in Italia. BlackRock, dice la Quercè per il Corriere, da sola gestisce 6.000 miliardi di dollari, appunto, cioè 3 volte il PIL italiano, insomma. Le imprese hanno sempre più chiaro che essere etiche ha dei vantaggi. Allora la domanda è, allora, ma di chi è la colpa? Non sarà la colpa del contadino africano che zappa la terra? Forse fuori dal BlackRock, forse qualche colpa ce l'ha più del contadino africano, però invece aspettare situazioni salvifiche da questi paraggi, penso che campa cavallo che l'erba non cresce più. Ma allora sul fallimento di Madrid vediamo con l'altra parte intervista che nella prima l'avevamo andata sabato mattina con Andrea Barolini, giornalista di Valori.it, impegnato a guardare le questioni ambientali, il perché questi altri paesi non ci stanno. Ci sono altre nazioni che dicono: noi non soltanto non siamo responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, ma subiamo anche la stragrande maggioranza delle conseguenze. Sono questi small countries che sono quelli che maggiormente si stanno battendo per cercare di chiedere di lavorare seriamente per contrastare i cambiamenti climatici. Il problema è quindi questo, ma è anche il fatto che gruppi di paesi come l'Unione Europea non stanno prendendo una posizione sufficientemente chiara. Questo è stato ribadito anche dalle associazioni e dalle ONG presenti qui alla COP25. Ci si aspettava da parte dell'Unione Europea una leadership maggiore, invece l'Europa si è posta finora a metà strada, diciamo, tra i piccoli paesi che chiedono di agire e quelli invece che, per ragioni diverse, perché legati a uno sviluppo in divenire o semplicemente perché ancora con economie dipendenti da carbone, petrolio e gas, chiedono di rallentare il processo di azione climatica. Se la situazione dovesse rimanere questa, con l'Unione Europea che non riesce a diventare leader mondiale in questo senso, diventa effettivamente molto complicato, anche perché noi abbiamo un anno di tempo, perché questi documenti, queste promesse di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovranno essere consegnate alle Nazioni Unite entro il 2020, quindi alla COP di Glasgow che si terrà il prossimo anno. Se questo non dovesse essere fatto, o se fossero presentati dei documenti insufficienti, sarà veramente veramente difficile, perché saranno passati altri 5 anni e già numerosi studi IPCC e di altri organismi internazionali spiegano che già adesso la riduzione dovrebbe essere enorme per poter raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 e arrivare alla fine del secolo, quindi ad una temperatura non superiore ai 2 gradi. Durante appunto la conferenza ci sono state anche mobilizzazioni, si sono visti Friday for Future. Come viene percepito, considerato il movimento all'interno appunto della conferenza, al di là dei sostegni formali, insomma? Più persone hanno sottolineato, non soltanto da parte delle associazioni ma anche a livello istituzionale, quale sia la distanza. Come c'è chi ha detto, non c'è mai stata così tanta distanza tra società civile e i negoziatori che sono chiusi nelle stanze della COP25. E effettivamente la spinta dal basso è molto forte, però la sensazione è sempre più quella che non si sia ascoltati. Io ho notato alla manifestazione alla quale ho partecipato venerdì scorso qui a Madrid, nella stessa manifestazione di Fridays for Future, orientamenti decisamente diversi. Da una parte c'era chi, per esempio il WWF, aveva uno striscione con scritto "possiamo agire ora o mai più", e dall'altra c'erano degli altri striscioni che parlavano in maniera del tutto aperta di una conferenza come della COP25 come di una conferenza farsa. Quindi addirittura ho percepito il fatto che nel movimento comincia a esserci qualcuno che non crede neanche più all'azione climatica che possa venire dalle Nazioni Unite, da questi eventi. D'altra parte è vera anche un'altra cosa: parlando con l'Italian Climate Network l'altro giorno, ci siamo detti sì, è vero però che si sta tentando effettivamente di fare qualcosa di enorme. Si mettono insieme quasi 200 paesi e non si lavora a maggioranza, si lavora con il principio del consenso, quindi si deve trovare un compromesso ed è naturale in qualche modo che si tratti di un lavoro estremamente difficile, perché sono paesi con storie, culture e esigenze anche completamente diverse, quindi è inevitabile che ci sia un'enorme difficoltà dal punto di vista del negoziato stesso. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. penne di classe e piume d'oca. 9:56 minuti, siamo invece alla crisi italiana che batte ovviamente fortissimamente nel meridione d'Italia, perché è sempre il primo a pagare, vista anche la sua fragilità di partenza. E allora oggi leggiamo dalla pagina del Messaggero di Roma: Banca per il Sud con 900 milioni. Sì, il decreto di salvataggio di Popolare Bari. Il governo finanzia Mediocredito per l'operazione Via Libera ad un istituto per investimenti nel meridione, attacchi a Banca Italia, tensioni tra i ministri. Due cose risultano evidenti: da una parte ancora una volta ci si lamenta dei mancati controlli progressivi, salvo ricordarsi alla fine mandare dei commissari tra Banca Italia e Consob, insomma se c'erano dormivano, e dall'altra parte si nota come la tendenza in un momento di crisi dall'Ilva alla Banca di Bari, beh, in qualche modo un intervento dello Stato, si torna all'idea dello Stato imprenditore. Sì, il decreto salva banche, 900 milioni per il Sud. Popolare Bari via l'intervento di Invitalia. Conte dice risponde: responsabili pagheranno. Primo passo per un istituto del Mezzogiorno Renziani 5 Stelle contro Banca Italia. Questo è quanto. Mentre allora il governo alle corde secondo la bomba del credito di Antonio Signorini dal Giornale. Il governo vuole le manette e ci fa pagare 900 milioni. Quindi da questo titolo si evincerebbe che il Giornale è contro far pagare a chi ha messo la Banca di Bari in ginocchio il FIO, e poi però non vorrebbe salvataggio dei conti correnti dell'industria. Non si capisce bene cosa vorrebbe. Comunque andiamo al Popolare Bari via salvataggio anche la Gazzetta del Mezzogiorno e poi altri giornali più o meno sullo stesso tenore, tra cui per esempio il Corriere: Pop Bari, un decreto con 900 milioni, Di Maio e Salvini contro Banca Italia, sia al salvataggio e caccia ai responsabili, l'intervento per una banca pubblica di investimento al Sud. Stasera la prima verifica in questa contrastata maggioranza. Il premier avverte i suoi: se fallisce stacco la spina. Tensione tra gli alleati. Zingaretti vuole intesa su 4 punti. C'è anche un'email per tranquillizzare i correntisti, ma penso che più che un'email i correntisti sarebbero tranquillizzati per un fideiussione o qualcosa del genere. Il PD non vuole trovare sempre il semaforo rosso, così arriva il game over. Queste bocce, che appunto presenza del PD in Puglia, la Popolare di Bari: se il mercato fallisce tocca allo Stato. E allora guai però naturalmente aprire una commissione sulle banche in Parlamento, perché è meglio non sapere, insomma, pure dirla a mezza bocca. Ne è convinto il senatore Casini: dannoso fare un'altra commissione di inchiesta. Nell'altro mandato con l'altro governo Casini, che si è dichiarato contrario alle banche, contrario alla commissione per le banche, per premiarlo ha fatto presidente della commissione sulle banche, quindi con la sicurezza che non avrebbe mai funzionato. Sì, c'è da dire che malgrado la Popolare di Bari comincia a dare serie avvisaglie di problemi nel 2010, dopo una verifica era stato anche disposto il blocco di ogni attività di espansione dell'istituto, qualche anno dopo, nel 2013, questo blocco viene tolto e Banca Italia dà la possibilità a Banca Popolare di Bari di acquisire Tercas, quindi autorizza l'operazione che poi porta al crack definitivo. Un'altra cosa che ci racconta Repubblica, che è riuscita ha avuto accesso agli atti ispettivi di Banca Italia, al carteggio con la Popolare e anche alle relazioni della Consob, quindi ricostruisce dalla prima ispezione dell'8 ottobre del 2010 fino ad oggi cosa è più o meno successo. Quindi sull'acquisizione di Tercas si gioca la partita delle responsabilità tra gli amministratori della Popolare di Bari e la vigilanza. C'è anche da dire che gli amministratori della Popolare di Bari, come è successo in altre banche, nel 2013 si sono aumentati i compensi, ma non aumentati, che so, delle 100 euro, no, triplicati i compensi. E il patriarca, chiamato così, per il patriarca arriva una retribuzione annua di 600.000 euro. Quindi i temi sapevano che duravano poco, quindi hanno voluto massimizzare. Esattamente. E, dal 2013 a oggi potete indovinare quanti soldi, anche solo di stipendi dirigenziali, siano usciti da un cassetto che già aveva i buchi. Nazionalizzare non ha senso, lo Stato avrà solo svantaggi. Questo è Carlo Cottarelli che parla dalle pagine della Stampa. Il tracollo era annunciato dalla cattiva gestione, perdite irrecuperabili, il paradosso di criticare gli intrallazzi tra finanza politica e chiedere di statalizzare. Questo è il punto che fa appunto Carlo Cottarelli. C'è uno scontro tra Renzi e Di Maio su come affrontare la questione appunto Banca Popolare di Bari, anche se si concorda tutti sul fatto che bisogna salvare il salvabile per la protezione dei risparmiatori e dei piccoli azionisti. Insomma, questo è palese, ma poi sul come ci sono divergenze pesanti. E ancora il leader Movimento 5 Stelle attacca: non faremo come per Banca Etruria. E ovviamente Italia Viva replica: solo bugie. Certo che l'abbreviazione di Italia Viva assomiglia tanto a quella che era l'abbreviazione di Italia dei Valori, e ogni tanto rischio di confondermi. Se chiamo il partito di Renzi Italia dei Valori, perdonatemi, perché quando uno vede IV ricorda cose passate. E intanto vogliamo restare su questa questione dei 5 Stelle, perché il team del futuro ieri è stato votato sulla piattaforma Rousseau quello che deve essere il team dei facilitatori. Insomma, piano piano il Movimento 5 Stelle sta scoprendo che le dinamiche che erano proprie dei partiti di una volta e anche gli organismi potevano avere un qualche senso. Poi magari lo chiamano con un nome diverso, ma questo comitato dei facilitatori assomiglia tanto a quella che una volta si chiamava la segreteria nazionale di un partito. Dopodiché Di Maio annuncia anche che a marzo, mi pare, o comunque nel 2020, ci saranno gli stati generali del Movimento 5 Stelle, che assomiglia tanto a quella cosa che una volta si chiamava congresso. Quindi piano piano si scopre che certi passaggi e certi organismi potevano essere utili per la gestione di un insieme di persone che fanno politica insieme. Quindi Luigi Di Maio a Roma presenta i nuovi 18 facilitatori del team del futuro che lo affiancheranno nella gestione del movimento. Complicazioni lessicali, nient'altro, per non dire dirigenti e segreteria politica, ci dice appunto Federico Capurso dalle pagine della Stampa. Come a dare una mano di trucco leggera, in sostanza, la trasformazione del Movimento 5 Stelle in partito, una metamorfosi necessaria però per alleggerire il peso sulle spalle del leader. Lo stesso Di Maio ammette di essersi sentito molto solo negli ultimi anni anche nel prendere le decisioni, e per proteggerlo così dalle critiche che lo sommergono da mesi e dall'accusa di aver accentrato nelle sue mani tutto il potere. In sala al Tempio di Adriano è presente lo Stato Maggiore Grillino, anche Davide Casaleggio, che in una prima fase aveva visto con diffidenza la riorganizzazione del movimento. E quindi, insomma, si vanno a presentare questi facilitatori. E poi questo articolo: l'impulso a coinvolgere gli attivisti con assemblee nei territori e riportando i banchetti nelle strade arriva anche da altri due membri della segreteria politica, Paola Taverna e Danilo Toninelli, mentre Emilio Carelli promette una comunicazione più strutturata con toni diversi di governo. Spinte divergenti, ma la trasformazione è quasi completa. Manca solo una sede di partito e una scuola di formazione politica. Non sono previste, rispondono dal movimento, per ora. E poi abbiamo questo tema: dietro l'inciuccione di Salvini c'è il patto di Renzi contro Conte. I due Matteo del Fatto Quotidiano vogliono far fuori il premier, avvicinare Italia Viva al centro-destra. Nei colloqui settimanali tra i due Matteo è entrato pure il governo di unità nazionale. A rieccoci, direbbe qualcuno. Per il senatore di Scandicci un modo di evitare le urne e di riposizionarsi con il centrodestra. Per il leader della Lega un'occasione per minare la durata della legislatura con lui fuori dalle stanze dei bottoni. E dice il Fatto Quotidiano, le sardine fanno paura entrambi perché mettono un argine per cui rende più difficile questo chiamato inciuccione. Ma è solo una cattiveria del Fatto Quotidiano, che sicuramente è una certa amica di Matteo Renzi? Beh, forse no, perché altri lo pensano. Per esempio, la capogruppo Bernini, la mossa del dialogo proposta da Salvini, facciamo un governo di unità nazionale per risolvere i problemi, ecco, questo è un Salvini improvvisamente addomesticato, ma la mossa del dialogo piace a Forza Italia, quindi la riunione del grande centro, l'avvicinamento tra Renzi e Berlusconi, la capogruppo Bernini, se Giorgia Meloni è critica, la capogruppo di Forza Italia al Senato, ma Anna Maria Bernini, apprezza l'iniziativa di Salvini. La proposta di un tavolo tra governo e opposizione è molto berlusconiana, è un atto di responsabilità in un momento in cui il paese sta attraversando una fase delicatissima. Allora la Meloni si diceva, l'idea bipartisan di Salvini, proposta incomprensibile, prima doveva parlarcene. La Meloni dice, non capisco perché il Carroccio tratta sul proporzionale, cioè tratta con Renzi il proporzionale. Evidentemente se abbassi la quota proporzionale, Renzi può rischia di rimanere in Parlamento e può andare alle elezioni. Ma c'è, non vanno troppo le cose bene, almeno secondo il Corriere e Fabrizio Roncone, nelle file di Italia Viva di Renzi, perché è l'ora dei malumori nella truppa renziana, in tanti rischiamo di non essere rieletti. Allora arriva il bastonatore Ansaldi è proprio il Vidali, direbbe qualcuno, il picconatore messo in Rai, come è il cane pastore della truppa renziana. Ansaldi dice, se c'è chi è venuto per il seggio per fare il divetto in TV ha sbagliato i conti. Questo è perché cosa succede? Allora Fabrizio Roncone va nella buvette del Parlamento, laddove ci sono discorsi forse più interessanti di quelli proclamati ufficialmente dai banchi di Montecitorio. E allora i discorsi sono questi: abbiamo sondaggi inchiodati tra un 3,8 e un 5,6% e non ci vuole la Ghisleri per capire che il partito purtroppo stenta, non decolla, e se si votasse domani, beh, molti di noi rischierebbero di non essere eletti. Un deputato in un salotto romano. Questa è la fotografia che viene fatta dal quadro. Questo mentre appunto noi insistentemente stiamo su certe cose, per esempio torniamo ancora una volta sui terreni ambientali, torniamo ancora una volta su Torino e sul discorso di Greta Thunberg fatto dal palco, naturalmente nella sua traduzione. Questo è il momento di parlare chiaramente. Ed è per questo che lo gridiamo senza mezzi termini. Voi non state facendo il vostro lavoro. Il compito del giornalismo in questa crisi è fondamentale quanto chiaro. Dire la verità. Dovete dire la verità. Conoscere la verità è un diritto delle persone. Raccontare la verità è il dovere dei media. Come possiamo pensare di raggiungere i nostri obiettivi, gli obiettivi necessari per la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi e le specie viventi, compresa la nostra, se la maggior parte delle persone neppure sa che ci troviamo nel mezzo di un'emergenza? Nelle ultime settimane abbiamo assistito a fenomeni meteorologici devastanti e estremamente vicini nel tempo e nello spazio. Le principali testate italiane però titolavano «Allarme maltempo», «Torino-Savona crolla ponte per il maltempo». Ebbene, questo non è maltempo, è emergenza climatica. È necessario parlare di crisi climatica come si parlerebbe di una crisi economica, di una crisi di governo, di una guerra o di un'epidemia. Brava! Quando ero bambina non sentivo parlare d'altro che di crisi climatica, di crisi economica. Ne ho sentito parlare così tanto che mi sembrava che nient'altro nel mondo dei grandi potesse avere senso, se non questa grande crisi economica a cui non sapevo neppure dare un volto. Le notizie erano dappertutto. Come Com'è possibile che la crisi climatica non riceva altrettanta attenzione? Come può essere che un'emergenza che mina le basi stesse della democrazia e della vita su questo pianeta venga ignorata e classificata come maltempo? Dite che nulla nella vita è bianco o nero, ma questa è una bugia, una pericolosissima bugia. O parliamo della crisi climatica con l'urgenza necessaria, o non lo facciamo. O informiamo le persone dell'emergenza in cui ci troviamo, o non lo facciamo. E voi non lo state facendo. Vogliamo la crisi climatica in prima pagina e la vogliamo adesso! Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Ma il mostro che abbiamo creato in tutti questi anni, decenni di silenzio e di compromissione è grande, almeno secondo Mirko Canevaro nelle letture del Fatto Quotidiano. Crescita delle diseguaglianze, il razzismo dilaga tra i poveri. La Lega vola nei sondaggi e fa breccia tra le fasce più deboli, dove il tema immigrazione tiene banco. Secondo l'SVG il 55% degli italiani considera gli atti di discriminazione potenzialmente accettabili, che naturalmente penso che dica da sé. E poi abbiamo altri aspetti per quanto riguarda la cronaca del mondo della politica, o meglio, o quella della magistratura in questo caso qua. Parliamo della carta Bia, eletta presidente della Consulta, salutata come una vittoria storica per le donne, eccetera eccetera. Abbiamo visto tanti commenti in questo genere la settimana scorsa, ma Fabrizio Risposito ricorda che c'è l'inno d'ortodossa contro il fine vita, la biografia dimenticata di Cartabia, era una di quelle di Verona. Marta Cartabia, o Cartabia, Cartabia incarna una volta storica in questo 2019 e si rivolge al termine, è la prima donna e c'è bla bla bla, è il coro mediatico. Eppure l'11 dicembre, giorno della sua elezione, i responsabili del meeting di Cielino di Rimini hanno ricordato con orgoglio la presenza fissa della giurista al loro raduno nazionale. Al meeting Marta Cartabia è stata relatrice in varie edizioni dal 2003, quando presentò il libro Un'Europa Cristiana di Joseph Weiler, spesso preparato i temi legati ai diritti umani e della giustizia, soprattutto per i risvolti umani e esistenziali che l'esercizio della giurista, della giustizia implica. Insomma, una sanfedista a capo della Corte. Ma invece torna alla manovra, ma sull'aspetto che si misura Claudia Voltattorni del Corriere della Sera. Manovra verso lo stop alla cannabis light. La misura potrebbe essere giudicata inammissibile. Meloni e Salvini contro liberalizzazione, 5 Stelle favorevole. Il ritorno della cannabis light rischia di creare una nuova frattura all'interno della maggioranza, proprio a ridosso dell'ultimo pezzo di strada della legge di bilancio che comincia oggi col voto in Senato e la fiducia posta dal governo. Anche se inserita nel maxiemendamento dell'esecutivo, la norma sulla liberalizzazione della vendita della canapa indiana voluta da 5 Stelle oggi potrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto estranea alla materia. Nessuna scelta di campo da parte della Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, ma solo un intervento tecnico, spiegano così da Palazzo Madama, insomma, come Ponzio Pilato che se ne lava le mani. La cronaca poi invece sulle strade parla una lingua terribile, un weekend di sangue, questo è il giornale, altre 9 vittime sulle strade italiane, 5 morti in Veneto, tra i 3 giovanissimi, tragedia anche vicino a Roma e a Catania, avevano tra i 20 e i 25 anni, 3 ragazzi deceduti in uno scontro frontale. Nel Veronese una donna di 52 anni rimane uccisa con la figlia all'interno di uno scontro. Andiamo agli esteri la Scozia rilancia l'indipendenza, perché ovviamente dopo ciò che è avvenuto con le elezioni Scozia e Irlanda temono per la loro tranquillità europea, diciamo così. La leader nazionalista Sturgeon: abbiamo diritto a un altro referendum, ma è scontro con Johnson, deciso a negare una seconda consultazione. Intanto Corbyn si scusa per il tracollo dei laburisti dicendo che è tutta colpa sua, e dicevamo che la premier scozzese dice non può la Scozia restare imprigionata nel Regno Unito contro la sua volontà. Questo è quanto dice. Poi a proposito di lamentele sulla libertà di espressione, beh, diciamo che se noi abbiamo dei problemi, ma ci sono posti nel mondo che ne hanno qualcheduno più di noi. Uno di questi è la Cina, ho risaputo. Ritorsioni dopo le parole del calciatore turco tedesco Özil, ci ha offesi. Cosa ha detto Özil? Ha criticato la Cina per la questione